9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 11 maggio da Oscar Giannino. Il gattaccio oggi farà un po' il bastian contrario, come ogni tanto gli capita. Voi lo perdonerete perché tanto avete capito che ogni tanto i gatti sono così. E quindi dopo la giornata di giustificato entusiasmo dei mercati e il trionfalismo che dovunque sui giornali di oggi scorre a fiumi, a tonnellate, sulla salvezza che improvvisamente si è manifestata come un lampo di genio nei grandi politici, che in realtà sono gli stessi che per mesi e mesi dal 14 gennaio non ci avevano capito un H sul fatto che stava arrivando il tornado e che il problema non era quello solo della crisi dei greci che avevano truccato i conti, ma c'era un problema di ordine generale sulla sostenibilità dei debiti pubblici di parecchi paesi europei e di moltissimi paesi dell'Ocse, perché i debiti pubblici sono esplosi nelle due anni di crisi. Andiamo per un orizzonte di lunghi anni in cui ci sono pacchi di migliaia di miliardi di carta pubblica che deve essere piazzata sui mercati, e quando è così inevitabilmente il mercato inizia a interrogarsi sulla solvibilità, prima per un anno e mezzo, degli intermediari finanziari del debito privato, oggi un nuovo capitolo ma uguale dallo stesso punto di vista sulla solvibilità dei debiti pubblici. Allora, possibile, speriamolo naturalmente, che i politici che tanto avevano rinviato la soluzione fino a farne ingigantire i costi del problema cosiddetto greco siano gli stessi che hanno azzeccato tutto domenica scorsa. Ma avete sentito l'ottima Deborah Rosciani, che già nel riportarvi il cambio dell'euro riallineato a quello del precrisi oggi si chiedeva alla fine del servizio al Generale Radio se per caso questo non ci indichi che i mercati si stanno grattando la testa. E dopo aver ieri modificato a livello di massa, come ovvio, le posizioni corte in posizioni lunghe, e questo spiega il più 10-11%, i numeri specialissimi della giornata di mercato di ieri, se per caso non ci aspetti in tempi molto più rapidi di quanto giustifichi tutto questo ottimismo espanso a piene mani sui media, una battuta all'indietro, e se per caso non si riprenderà a ballare, perché agli occhi dei mercati in definitiva il mega pacchetto votato domenica appare un pochino più lacunoso e con molti maggiori difetti di quanto ciò non appaia a prima vista. Allora, prima parte della trasmissione, cerchiamo di capire cosa non funzionerebbe o non funzionerà, o che cosa manca e che cosa non va bene di quello che c'è nel pacchetto di domenica. Ma la domanda che faccio a voi, chiedendo di chiamarvi all'800 o 24 0024, non di chiamarvi ma di chiamarci, è di rispondere a una domanda secca. Vi siete resi conto? Siete d'accordo? Siete pronti al fatto che, per quello che ancora manca nell'accordo di domenica, cioè la parte relativa agli impegni di ogni paese dell'euroarea a capire che il patto di stabilità sarà non più solo sui saldi pubblici, su quelli l'Italia stava bene, avete visto, non è che ha ballato troppo, ma invece bisogna aggiungere impegni concreti che anzi verranno messi nel patto di stabilità, verranno scrutinati da Bruxelles, che riguardano che cosa? La parte privata, l'efficienza dell'economia, una migliore condizione di bilancio di pagamenti, bilancia commerciale, quindi più produttività. La produttività e la vitalità della crescita dell'economia aperta alla concorrenza è uno dei fattori che in questa crisi diventa, insieme finalmente alla sostenibilità dei conti pubblici, ma a pari grado uno dei criteri di fondo, del pilastro aggiuntivo del nuovo patto di stabilità. Voi direte sì, ma il patto di stabilità nuovo è annunciato, non è scritto, e avete ragione, infatti è una delle classiche cose che manca nell'accordo di domenica e che i mercati giustamente si grattano la zucca. Ma il problema è che questa crisi insegna che ogni paese non deve aspettare la sveglia dei mercati per dare i segnali che i mercati si aspettano, e quindi la domanda è: volete voi, siete pronti, disponibili a una serie di interventi, anche se non siamo stati toccati fino a questo momento dal fuoco della sfiducia, che riguardano per esempio ritocchi alla previdenza? Siete disponibili a che per esempio gli aumenti alla pubblica, ai dipendenti pubblici pur contrattati con il sindacato regolarissimamente alla fine dell'anno scorso, e anzi con polemiche perché il governo aveva la lesina, vi ricordate che Brunetta si impuntò, magari siano sospesi per un anno invece che concessi ai dipendenti pubblici? Siete favorevoli per esempio che le prossime finestre previste dalla Dini per il prepensionamento ancora a 58 anni allo stato attuale magari vengano unilateralmente chiuse e si prenda tempo per risparmiare dei denari? Faccio alcuni esempi a caso. Un altro potrebbe essere il rinvio temporale del termine per i decreti di attuazione del federalismo, di tutte o alcune delle misure che l'Italia potrebbe prendere unilateralmente e facendolo presto e da sola potrebbero contribuire a una interpretazione di ciò che ancora manca nel patto di domenica e che forse sarebbe utile. Sono curioso di sapere come la pensate voi. Nella seconda parte della nostra trasmissione di questo parleremo, chiedendolo a sindacalisti e a economisti che si interrogano su questo. Ma intanto, fine della mia introduzione, iniziamo con la parte del pacchetto che c'è, non c'è, funziona o potrebbe meglio non funzionare, e facciamolo con un paio di domande secche a Mario Seminerio. Lo conoscete, è un economista, portfolio manager per società di gestione italiana e internazionali, è curatore di un blog che a me piace molto. Io sono praticamente sempre d'accordo con quanto vi scrive. Il blog si chiama fastidio.net con il ph, e potete controllare, perché se andate su fastidio.net o su www.chicago-blog.it, che è il mio, troverete che siamo più o meno analogamente allineati. Allora, Seminerio, buongiorno e grazie innanzitutto. Buongiorno, grazie a voi. Ieri lei ha scritto si risponde al debito, a un problema di debito con altro debito. Ci spiega questa cosa che può sembrare un calembour, ma in realtà credo che sia uno dei punti che non convincono i mercati. Beh sì, sostanzialmente è stato creato questa doppia linea di facility, una facility da 60 miliardi che era già preesistente, relativa alla possibilità, ex articolo 122 del Trattato di Lisbona, di dare assistenza ai paesi che hanno problemi di bilancio dei pagamenti. E qui sarà la Commissione europea che va sui mercati, si indebita e mette a garanzia il proprio budget. E poi c'è questo veicolo speciale, questo SPV, Special Purpose Vehicle, da 440 miliardi di euro, che sarà finanziato dai paesi membri dell'Eurozona con una qualche manifestazione di interesse anche da parte di Svezia e Polonia, che servirà, diciamo, a sostenere i paesi membri che richiedessero questo intervento. Questa è l'area più grigia, perché questo veicolo, che effettivamente è un mostro e che potrà anche essere integrato dal Fondo Monetario Internazionale con altri 250 miliardi di euro, non figura in nessun trattato internazionale, ha uno status legale che è ancora largamente indeterminato, per essere più precisi proprio non esiste, e quindi questa è una forma di assistenza abbastanza, come dire, indeterminata e fumosa. Cioè sostanzialmente il paese membro che dovesse avere problemi ad andare sui mercati per rinnovare il proprio debito in scadenza, quello che tecnicamente si chiama rollover, l'idea è quella di rivolgersi a questo veicolo speciale che fornirà questi finanziamenti, quindi isolando il paese in questione dalle turbolenze di mercato. Diciamo, in estrema sintesi, è un pacchetto Grecia agli steroidi, nel senso che è stato moltiplicato N, è un piano, è un contingency plan, nel senso che sono dei crediti di firma, se possiamo usare questo termine, nel senso che si materializzeranno su richiesta dei paesi che ne avessero l'esigenza. Ci sarebbe molto da dire tecnicamente, ad esempio se il debito emesso da questo veicolo sarà subordinato al debito privato detenuto da altri creditori, oppure se sarà sovraordinato. Nella sostanza c'è da scrivere tutto lo status legale, non solo del veicolo, ma anche del debito. Allora, in questo senso noi stiamo sostituendo debito a debito, cioè sostituiamo il rollover, il rinnovo dei titoli di Stato in scadenza dei paesi che dovessero avere problemi sui mercati, con il debito comunitario che è stato apprestato all'interno di questo veicolo. La interrompo un secondo per far capire ancora meglio a chi è a casa. In realtà, in natura, su questo pianeta, che vi dicano, ci sono solo, scrivono tutti quelli che più o meno ne sanno di come si riducono i debiti, ci sono solo due strade per ridurre un debito. Questo riguarda i debiti familiari come quelli degli stati, più o meno è la stessa cosa. Cioè, la prima cosa è di rinunziare in tutto o in parte a pagarlo, come ha fatto l'Argentina, ricordate anni fa. Oppure si usa massicciamente l'inflazione, che costituisce una potente molla attraverso cui si deprezza il valore reale di un debito nominale, e comunque significa non pagarlo o dichiarandolo in tutto o in parte, oppure fare in modo che l'inflazione lo deprezzi. L'altro modo, perché non ce n'è un terzo, l'altro modo è quello di pagare, lavorare di più, tirarsi sulle maniche, faticare di più per avere più soldini e con quelli pagare gli interessi del debito, perché a quel punto non lo si ripudia o non lo si riduce attraverso l'inflazione. inflazione. Al di fuori di queste due strade non ce n'è una terza. O meglio, ci dice Seminerio, ai debiti si risponde per il momento con debiti aggiuntivi. Io poi tra l'altro ricordo a tutti che questo veicolo speciale dei 440 miliardi che si aggiungono ai 60 ai quali si arriva con raschiando il fondo di barile delle disponibilità finanziarie della Commissione, ecco, questo veicolo speciale è il vanto specifico del contributo italiano alla maratona di domenica, perché proprio questa natura spiegata da Seminerio di uno strumento che non c'è in natura, nella natura conosciuta degli enti e dei soggetti, delle forme giuridiche attive nel campo specifico di cui stiamo parlando, ha costituito la possibilità per l'iniziativa italiana. Il ministro Tramonti oggi spiega sui giornali che in questo è stato l'apporto italiano a un copyright addirittura, proprio perché questa formula serviva a contemperare il no della Francia a strumenti che non fossero condivisi, cofinanziati automatici, e il no dall'altra parte della Germania a strumenti che invece fossero esattamente così, cioè fossero automatici, finanziati a prescindere dal veto degli stati e concessi per intervento automatico, mentre la Germania voleva il meccanismo bilaterale alla greca. La realtà è che noi non sappiamo come funzionerà questa roba, bisognerà aspettarne i meccanismi attuativi. È uno dei tanti punti interrogativi. Oltre a quello, sintetizzo, a cui chiedo di Seminerio di darci qualche spiegazione, perché la BCE non venga lesa nell'autonomia, perché è chiaro che se glielo ordinano i politici di comprare i titoli del debito, l'autonomia della BCE va a farsi benedire. Ma un altro problema è: se la BCE compra questi titoli, ha iniziato ieri a comprare il sistema europeo delle banche centrali per sostenere i titoli dei paesi dell'euro, e contemporaneamente non deve prestarsi all'accusa di monetizzare il debito, che cosa deve fare Seminerio? Deve, da quello che capisco io, vendere, da come spiegava anche lei, vendere un uguale ammontare dei titoli che compra, dubbi, quelli pubblici, dei titoli che ha già in portafoglio. Ma i titoli che ha già in portafoglio sono di solito migliori. E quindi qual è l'effetto a lungo termine di questo bilanciamento del portafoglio della BCE, che è un indebolimento in realtà? Cosa succede alla fine, Seminerio? Ma guardi, sì, come scrivevo, c'è una sorta di ricomposizione qualitativa del portafoglio della banca centrale, simile a quanto è accaduto ad esempio alla Fed, cioè la Fed nella fase immediata e più grave della crisi di fatto ha comprato cartolarizzazioni più o meno tossiche, cedendo la quasi totalità del proprio portafoglio di Treasury, per cui ha aumentato drammaticamente il rischio di credito del proprio portafoglio, cioè di esporsi alla possibilità di insolvenze. Io aggiungerei però che ieri ho preso ulteriori informazioni da colleghi che lavorano sull'estero in istituzioni finanziarie internazionali, e mi è stato detto che in realtà ieri le banche di investimento europee hanno effettivamente comprato più o meno tutto lo spettro europeo, soprattutto la periferia, ma non ci sono state operazioni di vendita sulla carta qualitativamente migliore, quindi non c'è stata una vendita, giusto per intenderci, di Bund. Allora questo mi fa pensare che di fatto la Banca Centrale Europea stia tentando una sorta di sterilizzazione automatica, cioè, per spiegare, mi rendo conto che è abbastanza ostico e cercherò di semplificare al massimo, la Banca Centrale Europea compra titoli di Stato, paga i venditori, in questo caso le banche commerciali, con un assegno. Le banche commerciali cosa fanno di questo assegno? Lo depositano sul proprio conto presso le proprie banche centrali nazionali, che sono parte della BCE. Così facendo, la entità delle riserve in eccesso delle banche commerciali scende, e di fatto per la partita doppia noi abbiamo sterilizzato l'operazione, quindi partendo dal presupposto che le banche commerciali questo assegno della Banca Centrale Europea non vanno a spenderselo. Quindi questa è l'essenza, non si sta verificando a ieri, e quindi questo confuta in parte quello che ho scritto ieri a caldo, non si sta verificando una vendita di Bund, bensì una sorta di tentativo di sterilizzazione automatica da parte della BCE, che così facendo ridurrebbe l'ampiezza delle riserve in eccesso che le banche hanno detenuto presso il sistema europeo delle banche centrali. E se così sarà, bisogna rendere atto che la BCE non si sta prestando, se non al minimo indispensabile. Si parla anche di uno scontro molto duro tra Trichet e Sarkozy, che invece voleva procedere molto oltre, limitando quindi l'autonomia della BCE. Se invece procederà così come vi ha spiegato Seminario dalla giornata di ieri, bisognerà rendere atto ai banchieri centrali di essersi impegnati tecnicamente per una soluzione che appunto non le leda quell'autonomia che allo stato degli atti tra le grandi banche centrali è quella più forte, perché insomma tutti considerano la Fed oggi parecchio al laccio della politica. Andiamo alla seconda questione però, perché bisogna alternare le spiegazioni un po' tecniche, ma che sono quelle che spingono i mercati probabilmente a essere un pochino più perplessi di quanto abbiamo raccontato ieri, con la questione di fondo, ciò che manca all'accordo e ciò che si chiede ai paesi. Allora, noi abbiamo due ospiti aggiuntivi. E intanto cominciamo col professor Fabiano Schivardi, che insegna economia politica presso l'Università di Cagliari ed è collaboratore della Voce.info. Buongiorno professor Schivardi. Buongiorno. Ecco, lei insieme a un altro paio di economisti per il Servizio Studi della Banca d'Italia è molto letto in questi giorni, più ancora di quanto non fosse in precedenza, perché lei fa anche il divulgatore poi sulla Voce. Perché? Perché ho fatto un paper proprio approfondendo gli effetti che l'euro ha avuto sul sistema delle imprese italiane. Come è noto ai nostri ascoltatori, le imprese italiane sono molto differenziate, sono anche un po' anomale per classe di grandezza rispetto alla media dei paesi OCSE e anche in Europa. Siamo il paese della piccola impresa, abituati a parlarne male, abbiamo scoperto che poi ha delle straordinarie virtù adattative, un'altissima elasticità al valore della domanda, ma detto tutto questo ovviamente ha dei anche problemi, nel senso che i suoi attivi patrimoniali sono ristretti e questo è un pesante vincolo poi alla crescita e agli investimenti. E voi avete esattamente analizzato quali effetti ha avuto l'euro sulle diverse classi e tagli di imprese italiane e quindi siete molto letti. Perché? Perché siccome ci si aspetta adesso tutti dover fare un passo in avanti per il nuovo patto di stabilità, per la parte dell'economia, produttività, crescita, export, bilancia commerciale e bilancio dei pagamenti, probabilmente proprio studi come quelli che avete fatto voi ci indicano che cosa potrebbe avvenire nella realtà produttiva italiana. E cioè, professor Schivardi? Diciamo che l'euro ha imposto un cambiamento strutturale molto forte. L'euro e la globalizzazione, cioè l'entrata nel mercato, diciamo, India, Cina e di produttori a basso costo, sul sistema delle imprese italiane, che fino alla metà degli anni Ottanta faceva della efficienza produttiva il suo punto di forza. Avevamo queste piccole imprese di bravissimi imprenditori a fare prodotti standard a basso costo, cioè a basso costo in termini efficienti, non di cattiva qualità. Quello che è successo è che però appunto con l'euro abbiamo perso la possibilità di svalutare, che era un'arma competitiva utilizzata nei momenti di crisi, e poi sono entrati produttori che da un punto di vista dei costi sono avvantaggiati rispetto a noi, perché il costo del lavoro in quei paesi è una frazione di quello italiano. Quindi la propulsione che si è innescata in seguito a questi due avvenimenti è stato che alcune imprese, le imprese che si sono ristrutturate, hanno spostato la loro enfasi, diciamo, dalla produzione, dal capannone, a dare dei prodotti che avessero caratteristiche speciali che li proteggessero in qualche modo dalla concorrenza dei paesi in via di sviluppo. Cioè, ad esempio, per i prodotti ad alta tecnologia, ovviamente investire in innovazione, quindi il contenuto innovativo dei prodotti, eccetera. Ma la cosa interessante è che questo è stato vero anche per prodotti a bassa tecnologia, per cui questo ragionamento era un po' meno ovvio. Cioè, nel tessile, nell'abbigliamento, nel calzaturiero ci sono state imprese che sono passate da essere ottimi produttori ad essere società quasi di servizi, cioè quasi terziarizzate, la cui ragione principale di esistenza era, non so, fare campagne di marketing per stabilire un marchio, organizzare una produzione in parte in Italia, in parte magari all'estero, e quindi garantirsi una domanda che non fosse direttamente in concorrenza con, diciamo, le scarpe cinesi, che dal punto di vista del prezzo sono imbattibili. Ecco, quindi diciamo, siccome gli effetti sono differenziati, come avete sentito, anche per tipologia, specializzazione, produzione, eccetera, eccetera, attenzione che questi effetti potrebbero, in presenza di un'accelerazione obbligata per reggere il passo, il benchmark, il punto di riferimento della bilancia commerciale dei pagamenti del paese leader, quello che a tutti gli effetti ha i sì e i no, il bastone del comando in mano, cioè la Germania, questi effetti con ogni probabilità, alla luce delle maggiori tensioni sull'aereo e della deflazione che in qualche misura la Germania, col suo eccesso di export che non sta riequilibrando induce a esportare, a importare negli altri paesi più deboli dell'euro. E attenzione che questi effetti che vi ha appena descritto sommariamente il professor Schivardi con ogni probabilità potrebbero accentuarsi. Ora andiamo in pubblicità, poi con Giorgio Cremaschi, segretario nazionale della FIOM, insieme al professor Schivardi rispondiamo alla domanda: alzare l'asticella per l'Italia oppure aspettare che ci obblighino a farlo? E se alzando l'asticella ci chiedessero di fare cose sulle quali fino a ieri la maggioranza degli italiani dicevano no, meglio non farle, sentiremo come la pensate. Intanto pubblicità. Allora eccoci, 9:33:40, come preannunciato dagli indici che erano preliminari all'apertura della borsa, la borsa inizia con segni meno, un po' in tutta Europa, anche da noi, vediamo adesso come si assisterà dopo i primi minuti, ma oggi insomma è una giornata di realizzi, di presi beneficio con ogni probabilità, quindi anche oggi direi che non è tanto una giornata di riferimento per capire se gli interrogativi che vi abbiamo tentato di porre nella prima parte della trasmissione siano fondati. La mia opinione è che siano fondati. Questo meccanismo di aiuto è un meccanismo di aiuto a cui manca ancora la parte come lavorare di più, come produrre più reddito nella parte dei delle tre macro aree del mondo che ha una minor crescita attesa, cioè l'Europa, per rendere tutti i debiti che crescono sostenibili, cioè per continuare ad avere interessi da pagare che aumenteranno, e aumenteranno in un contesto che sarà di minor crescita dei paesi di quella attesa, e quindi con problemini di tensione sui bilanci pubblici. E a quel punto, dovendo destinare più risorse agli interessi pubblici, significherà che ce ne sono meno per altre cose e che il peso diventerà maggiore anche poi per l'economia. Cioè significa per esempio avere un quadro di fronte a noi di aumento delle tasse altro che diminuzione. E poi la domanda che vi abbiamo fatto e che ora proviamo a rispondere con il professor Schivardi, che avete già conosciuto, e con Giorgio Cremaschi, il segretario nazionale della FIOM, che ci ha raggiunto. Buongiorno Cremaschi. Buongiorno. È quella: siete disponibili prima che arrivi una sveglia dei mercati, visto che fino a questo momento non è arrivata all'Italia, a dare il vostro consenso ad alcuni interventi aggiuntivi che l'Italia potrebbe assumere per rendere meglio sostenibili i suoi conti, dando per scontato che abbiamo tutti capito che bisogna fare la concorrenza oramai con i cattivi tedeschi, che hanno una bilancia commerciale dei pagamenti e una produttività maggiore della nostra e un tasso di occupazione che supera il nostro di 13 punti, perché di questo si tratta attualmente? Ecco, a questa domanda iniziamo a sentire gli ascoltatori, ma io chiederei subito a Giorgio Cremaschi di darci la sua risposta dal suo punto di vista, che è un punto di vista molto caratterizzato. Tra l'altro io oggi faccio il conduttore, mi scuso con lui perché in una recente trasmissione televisiva ho questionato con lui, ma qui ha pieno diritto di dire con pieno rispetto il suo punto di vista, lo chiamiamo per questo. Cremaschi, no, va bene, bisogna certo aspettarsi questi tipi di richieste aggiuntive, voi come rispondereste? Bisogna aspettarsi, le dico subito che la mia risposta, come si può immaginare, è assolutamente no a nuovi sacrifici, però purtroppo bisogna aspettarselo. Io sono intervenuto recentemente al congresso della CGIL criticando anche un po' la relazione di Epifani, che mi era sembrato un po' troppo buonista, spiegando che la Grecia parla a noi. Io voglio sottolineare che spesso nelle trasmissioni si coglie l'aspetto economico del debito pubblico della Grecia, però io vorrei che si tenesse conto che quello che sta succedendo in Grecia è una catastrofe sociale. Cioè pensioni adesso, e stipendi, insomma, no? Voglio dire, adesso ognuno di noi può fare i suoi conti, faccia i conti dove vengono tolti due stipendi all'anno, come si può vivere, e gli stipendi greci sono uguali o leggermente più bassi dei nostri. In più è vero che l'intervento è stato fatto solo direttamente sul pubblico, sugli stipendi pubblici, perché è lo Stato che è il datore di lavoro e quindi ha deciso che i suoi stipendi ne paga solo una parte. Però è vero che il segnale è stato dato tutto al mondo delle imprese, tanto è vero che, ci dicono i sindacati greci, sono stati immediatamente tagliati nel privato tutta quella parte di salario che è quella che oggi si chiama il salario flessibile, quella che dovrebbe essere il futuro, no? Quella che dovrebbe essere l'incentivo alla più produttività, oltretutto. Esatto, quella degli accordi di cui si discute, che io personalmente critico: più salario alla produttività, meno salario sui contratti nazionali. Ecco, in Grecia sono rimasti solo i salari dei contratti nazionali, e quindi hanno tolto, stanno tagliando i salari privati dal 20 al 30% della retribuzione, ognuno può fare sui conti. In più è aumentata, si è data la piena libertà di licenziamento per le imprese private, quindi una discussione comunque questa che c'è molto spesso in Italia. Quindi si capisce perché la gente fa le barricate poi in Grecia, ecco, perché siamo di fronte a una catastrofe sul piano sociale. Allora io è chiaro che dico solo, mi auguro ovviamente che non succeda, però temo e penso che quando un sistema economico chiede, non in un paese dell'Europa, della civilissima Europa, sacrifici di questo tipo, evidentemente pensa che si possono fare o che si debbono fare, e probabilmente si prepara a chiederli anche ad altri. Quindi prepariamoci a una situazione drammatica, perché io penso, tra l'altro, che anche dalle cose che ho sentito nella prima parte della trasmissione, che sì, si mettono degli interventi molto pesanti a sostegno dei debiti. Prima, un anno e mezzo fa, è stato fatto un intervento, mi pare, di 3.000, le cifre non so quante sono, ma insomma intorno a 3.000 miliardi di dollari o giù di lì a sostegno dei debiti privati delle banche americane, sostanzialmente americane e inglesi, ma comunque è stato fatto questo intervento. Adesso si fa un intervento a favore di dei debiti pubblici di alcuni stati di, mi pare, 750-800 miliardi di euro, quindi cifre enormi a sostegno dei debiti, però segnali che queste operazioni facciano cambiare il meccanismo economico, cioè che ci sia davvero una situazione per cui il malato, dopo avergli dato una terapia d'urto, comincia a camminare, a guarire, tutte queste cose, onestamente io credo che nessuno li può vedere. Quindi è evidente che siamo di fronte a una crisi economica che continua, di cui bisognerebbe probabilmente indagare le cause, cioè bisognerebbe chiedersi da dove comincia questa crisi. Mi permetto di obiettare al suo ragionamento una cosa, e cioè che se tutti i paesi dell'euro, tutti assieme, dicono il futuro è quello di aumentare le esportazioni, diminuire le importazioni e fare una maggiore competitività di un paese a danno dell'altro, l'Italia a danno della Germania, la Germania a danno della Francia, magari tutta l'Europa in competizione con la Cina, io credo che il risultato sarà somma zero, cioè se tutti vogliono esportare di più e nessuno vuole importare di più, il risultato mi pare a somma zero, cioè nel senso che qualcuno può darsi che ci guadagni, ma qualcun altro crolla, e quando crolla si rinnesta il meccanismo della crisi. Ora, Cremaschi ha posto una serie di questioni, l'ultima che ha posto è una questione seria, perché per avere una ripresa della crescita, visto che il commercio mondiale è il drive, bisognerebbe pensare a meccanismi di cambio concordato, tra l'altro, che servono a riequilibrare il bilancio dei pagamenti, nel senso che i paesi in eccesso di surplus, cioè classicamente la Cina da una parte, ma la Germania in Europa, dovrebbero fare più domanda interna, appunto per riequilibrare il fatto che le loro esportazioni, gli altri paesi più deboli, avendo minor domanda, non le assorbono più, e anzi dovrebbero essere i paesi in eccesso di surplus, come i tedeschi, a fare più domanda interna per consentire ai paesi un po' più deboli, tipo noi, che anche siamo i secondi esportatori, di poter contare sul loro mercato interno per reggerci. Ma se tutti i paesi in realtà vanno nella stessa direzione, e in questo Cremaschi ha ragione, è un gatto che si morde la coda. Però, lui ha citato esempi, stipendi, pensioni, ha citato gli esempi degli accordi nelle imprese per più produttività, e che cosa può succedere invece sui salari di produttività, io mi auguro l'esatto contrario. Ha fatto chiaramente capire i tipi di interventi verso cui si può andare. Io aggiungo le finestre pensionistiche per andare in pensione ancora a 58 anni le prossime due della Dini, per esempio il ritardo dei decreti di attuazione del federalismo, per esempio il contratto del pubblico impiego contrattato lo scorso novembre che potrebbe essere sospeso per quest'anno. I tipi di esempi di interventi sono di questo genere qua. Sentiamo come la pensano alcuni ascoltatori. Cominciamo da Roberto, dalla provincia di Firenze. Io, il mio punto di vista, ve l'ho detto, io penso che il più di queste cose derivano dal fatto che i politici tendono a raccontare un po' di balle e a dire che non bisogna mai fare questi interventi. Poi quando scoppiano le crisi se la pigliano con gli speculatori, ma è perché prima avevano raccontato che non erano necessari, quando invece sono necessari. Io e Cremaschi la pensiamo diversamente, perché lui dice che i mercati sbagliano a chiederli, perché è un modello di civiltà da difendere. Io penso che poi alla fine i più efficienti sono la civiltà, però insomma in questo la pensiamo diversamente e non lo nascondiamo. Ci unisce il giudizio sul fatto che i politici che raccontano balle poi alla fine il conto lo fanno pagare a voi. Roberto, dalla provincia di Firenze, come la pensa Roberto? Sì, buongiorno. Io sono disposto a fare dei sacrifici, e bensì diciamo che li abbiamo fatti anche da diversi anni, dopo tante manovre economiche che hanno poi portato sempre a fare sacrifici a tutti noi, no? Però se il sacrificio molto spesso è vano e non porta a nulla, è un sacrificio che perde la credibilità. E questo per quale motivo? Perché la politica molto probabilmente, e non perché io sono sempre contro la politica oppure le persone sono contro la politica, non hanno dato un po' un senso di moralità. Cioè se io faccio un sacrificio, secondo me anche la politica, anche se non ha un costo, diciamo è un peso su tutta questa crisi, ma deve fare un sacrificio morale nel dire va bene, gli italiani fanno un sacrificio, ma anche noi dobbiamo farlo sui nostri privilegi. Grazie Roberto, perché tocchi un punto sulla credibilità dei politici, diciamo che ultimamente poi queste settimane abbiamo visto anche vicende che toccano anche una sfera che è poi una sfera etica di credibilità. Quindi io sono molto d'accordo sul fatto che gli esempi deve dare chi chiede che la cinghia si tiri, e in Italia ricordiamolo, le retribuzioni dei politici sono le più alte di tutto il mondo avanzato, incomparabilmente le più alte, e ne abbiamo il maggior numero. Non credo che siamo anche in testa alla graduatoria di efficienza del loro contributo al sistema del paese. La si può pensare più favorevoli allo Stato e al solidarismo come Cremaschi, un po' meno come me. Detto questo, su questa faccenda qua, che poi i politici chiedono agli altri di tagliare, siamo più o meno d'accordo. Come la pensa invece per esempio Cristina da Roma? Prego Cristina. Sì, dottor Giannino, buongiorno. Il mio discorso va in riferimento a quello che diceva anche il signore prima di me. Sì. È evidente che come cittadini nessuno può esimersi dal non fare sacrifici, perché sarebbe una fesseria, ma è anche evidente che si chiede alla politica, ma non si chiede alla politica soltanto la moralità, l'esempio o il far vedere. Si chiede nei fatti, cioè noi abbiamo delle strutture politiche che hanno dei costi elevatissimi, abbiamo degli stipendi dei politici che fanno impressione, abbiamo come si dice, abbiamo la possibilità di avere più cariche contemporaneamente e quindi prendere tantissimi soldi. Cioè noi abbiamo una classe politica che oltre che essere staccata dal contesto del territorio, perché non si confronta più col territorio. Lei dice anche proprio staccata dalla terra, cioè non ha i piedi per terra. Io ringrazio Cristina, siamo alle solite, se uno va a vedere la retribuzione media delle qualifiche basse, ma anche medie, poi insomma del settore privato, delle aziende, gli operai, ma non solo, e così via. Beh, insomma, c'è gente che si deve arrabattare con cifre di fronte alle quali quelle che guadagnano i politici. Non voglio fare l'antipolitico né il qualunquista, è una questione di pesi rispetto a un livello di lavoro che siamo abituati ad assumere come elemento centrale della dignità di un uomo. Quando ci sono delle scompensi di tale proporzione per la politica, perché io ho un manager che produce grande valore, dico benissimo, ma c'è la politica, vabbè. Detto questo, ora andiamo su un'informazione sulla circolazione in diretta, poi torniamo con altre due telefonate, il professor Schivaldi e poi con Giorgio Cremaschi. Eccoci al 9.47, 53 secondi, la borsa continua a scendere non troppo, siamo un punto è qualcosa, vediamo nel prosieguo poi della giornata. Proseguiamo con ancora due telefonate rapide, sintetiche. Lorenzo da Milano, allora lei che dice, più sacrifici spontaneamente con gioia oppure no, grazie, tentiamo di evitarli? Buongiorno, sacrifici credo che siamo disposti a farli tutti se si riesce a intravedere un futuro migliore, il problema è mancano le riforme strutturali, e se le riforme strutturali non vengono fatte, quello che è successo in Grecia in queste settimane è solamente la punta dell'iceberg. Bisognerebbe iniziare, io non sono un economista quindi parlo per quel poco che posso capire, obbligare sicuramente le banche a fare il loro lavoro di banche commerciali e non a fare le operazioni di trading e via dicendo. Le imprese dovrebbero trarre, diciamo, la possibilità di prendere denaro per assumere persone, per cercare di aumentare la produttività, in modo da migliorare gli stipendi delle persone, da migliorare un pochettino la qualità della vita, perché sta peggiorando in una maniera incredibile, e fare ripartire un ciclo produttivo. Se prendiamo dei soldi, dei debiti, li spostiamo da un cassetto all'altro, come diceva l'economista che ha intervistato lei stamattina, non facciamo altro che proiettare nel futuro delle cose che diventeranno secondo me drammatiche. Grazie Lorenzo, che ci dice ci devono essere interventi strutturali perché i sacrifici siano, siano giustificati, altrimenti è come sprecarli, ed è un refrain, quindi mi pare che nelle telefonate che abbiamo raccolto la disponibilità ci sia, però c'è anche un po' di legittimo sospetto alla luce di tante volte che i sacrifici sono stati chiesti e fatti dagli italiani, e insomma qualche volta hanno visto il risultato arrivare, l'euro, se ricordate nel 92 quando ci presero i soldi sui conti, poi l'euro ci siamo entrati, tante altre volte invece i sacrifici sono stati chiesti e ottenuti e poi sono stati dissipati. Professor Schivaldi, la domanda è, negli studi comparati di produttività italiana, visto che di questo stiamo parlando rispetto a quello degli altri paesi avanzati, se vediamo i diversi maggiori fattori della produzione, cioè il fattore lavoro, il capitale, il fattore immateriale, cioè, qual è il punto su cui diciamo si può immaginare di colmare con delle misure non di lunghissimo periodo almeno alcuni dei gap più rilevanti di produttività, se assumiamo una componente multifattoriale e guardiamo dove si può recuperare in tempi ragionevolmente più rapidi, non significa in un mese, in un anno, ma comunque senza prospettive di dire deve cambiare la cultura, la formazione del capitale umano, cosa per cui ci sono bisogno di lunghi anni. Ecco, a questa impostazione la risposta del tecnico comparato qual è? Il problema della produttività in Italia è prevalentemente un problema di scarsa efficienza del meccanismo di allocazione, cioè abbiamo troppi lavoratori in attività a bassa produttività, e diciamo chi ha a che fare col pubblico questo lo capisce ovviamente, perché ci sono molti lavoratori nel pubblico che hanno attività produttive, però ce ne sono molti altri che invece attività produttive non ne hanno. C'è anche chi ha detto, professor Schivaldi, che grazie alla flessibilizzazione del mercato del lavoro al 2001 in avanti noi abbiamo guadagnato 6 punti di occupazione, e che è stato un grande passo avanti, che poi è diminuita la disoccupazione, ma soprattutto abbiamo aumentato l'occupazione, però l'abbiamo fatto aggiungendo appunto un elevato numero di posti di lavoro a bassa produttività ulteriormente. Assolutamente, cioè il problema dell'Italia, il PIL cresce o perché crescono gli occupati o perché cresce la produttività. Gli occupati in Italia sono cresciuti, quello che è assolutamente mancato è la produttività, in parte forse anche perché il mercato del lavoro negli anni 90 è stato flessibilizzato, ma in modo un po' sclerotico, nel senso che c'è una categoria di lavoratori molto tutelati, fra i quali io stesso, e poi invece questi contratti assolutamente di breve durata. Diciamo che per abbassare il costo medio abbiamo affiancato una categoria non così estesa come si dice rispetto ad altri paesi europei che ne hanno di più, ma una categoria di senza diritti per abbassare il costo medio dei troppi diritti e troppo onerosi, che Maschi non sarà d'accordo ma gli diamo la parola, di quelli ipertutelati. E quindi c'è questo problema appunto di queste risorse che non vanno nei posti giusti, e molto spesso appunto quali sono i provvedimenti di breve? Ad esempio in questo momento di crisi sono stati presi dei provvedimenti a sostegno delle imprese, sarebbe importante che questi provvedimenti non vadano a salvare imprese decotte, ma vadano ad aiutare imprese che magari hanno una prospettiva di crescita, ma che a causa del momento di difficoltà, di liquidità mancante eccetera eccetera, si trovano in difficoltà temporanee, di liquidità ma non di insolvenza. E uno dei problemi è appunto che in Italia ci sono molte imprese di ottimo livello, di ottima qualità, ma che per motivi appunto magari culturali, fa quelle cose che diceva lei che non dovremmo considerare troppo nel breve periodo, non crescono. Però questo potrebbe essere un momento particolare, perché queste imprese che spesso non vogliono aprirsi al capitale esterno perché sono imprese familiari, in questo momento sono più vulnerabili, e quindi è un momento in cui magari sarebbero più pronte in qualche modo a ricevere apporti esterni e disposte anche ad aprire la compagine sociale, ad aprirsi anche a risorse manageriali esterne. Mi prenoto il professor Schivaldi, perché presto faremo una puntata su che cosa per esempio il private equity, strumento assai poco diffuso nel nostro paese, può fare esattamente con strumenti innovativi di questo tipo le azioni di sviluppo. Comunque ne riparleremo, avete capito che la possibilità c'è, però c'è una questione, la chiedo a Cremaschi. Per aumentare la produttività, la mia impostazione è che chi ha le imprese e chi rappresenta i sindacati e i lavoratori delle imprese, forse dovrebbero iniziare loro a mettersi intorno a un tavolo prima di aspettare il governo che ce li metta, con gli incentivi o i disincentivi che può fare per quello. È ovvio, il governo ha potuto detassare, non troppo, ma detassare la parte di salario di produttività, quella che poi la CGIL e Cremaschi non hanno firmato e criticano, però forse aumentare la produttività con una reciproca disponibilità a concessioni potrebbe aiutare. Lei crede che questa sarà una strada perseguita o non se l'aspetta per niente, Cremaschi? Onestamente me l'aspetto poco, così come la dice lei, e le dico perché. Perché guardi, le due misure, a proposito di una discussione recente che abbiamo avuto io e lei, le uniche due misure che ha preso vere verso il personale in questo periodo, la più grande azienda manifatturiera italiana, la Fiat, sono da un lato di tagliare il premio di produttività, cioè di ridurlo, cioè di dire siccome c'è la crisi il premio di produttività è stato ridotto quasi a zero, e dall'altro di usare il prepensionamento, cioè appunto lei ha prima detto allungare, ecco, le pensioni anticipate per chi arriva intorno ai 50 anni con la mobilità, con tutti quei meccanismi che si chiamano ammortizzatori sociali, che poi sono questa cosa qui, mandando via tutti quelli che hanno più di 50 anni, dicendo io preferisco avere una forza lavoro più giovane e quindi facendosi pagare queste cose. Quindi mi pare chiaro che se davvero ci si dovesse mettere intorno al tavolo, cioè bisogna anche pensare a un cambiamento profondo nel modo di organizzare la produzione, di lavorare rispetto a questi anni. Una delle cose che veniva detta è assolutamente giusta, cioè io voglio dire, noi ogni tanto, io parlo in questo caso del settore privato, guardiamo la competitività dei paesi più avanzati, perché è chiaro che nessuno di noi pensa che la produttività è il Vietnam, per cui uno, quella è evidente, uno viene pagato 100 euro, esatto, 100 esatto. euro al mese. A quel punto non è quello che possiamo permetterci, quindi è chiaro che la produttività in questo caso è la qualità del prodotto, l'efficienza della produzione, il fatto di avere meno scarti possibili, e questa è la produttività materiale. Poi c'è quella che deriva dalla tecnologia, ma quella che, cioè di avere meno riduzioni cioè di avere delle cose che vengono fuori con il massimo di qualità nel minor tempo possibile, e questo richiede però un certo tipo di rapporto di lavoro, ecco. Cioè non si fa col precariato. Questo lo capisco, sicuro. Quindi probabilmente un'impostazione che accettasse di ridiscutere alcune delle scelte con cui abbiamo, sì è vero, aumentato l'occupazione, però con quelle caratteristiche che diceva Schivardi e che sono quelle su cui poi la CGIL si lotta e si impegna, forse rivedendo alcune di queste cose si potrebbe costruire una cornice tale per cui forze d'impresa, forze del sindacato, tutte le forze del sindacato potrebbero trovare una maniera diversa poi di compattarsi, di raggiungere nelle aziende, nelle imprese, nelle categorie, nelle filiere eccetera, una maniera diversa di affrontare, italiana, perché noi abbiamo una specificità di tipi di impresa, un problema di anche reddito disponibile dei lavoratori da sostenere, però di affrontare la questione della produttività. Ne riparleremo, grazie a Cremaschi, grazie a Schivardi, grazie a Seminerio, grazie a Filippo Reggi in regia, grazie a Alessandro Marco Tulli in redazione. Linea al giornale radio, appuntamento a domani. 9 in punto. Yeah.